9 in punto. Ed eccoci, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buona giornata. Dunque, oggi parliamo di Siria. Parliamo di Siria con una domanda che resta naturalmente sotto traccia e che vi facciamo. Vi chiediamo, e potete intervenire all'800 24 00 24 oppure sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/9in.radio24, se secondo voi sarebbe il caso di intervenire appunto in Siria dopo l'uso di armi chimiche da parte di Assad. Un quadro brevissimo della situazione sui numeri che vi abbiamo già fornito nell'anteprima, che però vale la pena ricordare un'altra volta. Parliamo di 110.000 morti accertati dall'inizio di questa guerra civile. Parliamo di, si dice sempre, 2 milioni di rifugiati. In realtà i rifugiati sono 7 milioni, perché sono 2 milioni quelli che sono andati fuori dal paese e 5 milioni quelli interni, quelli che hanno lasciato e sono stati costretti a lasciare le loro case. Tenete presente che è un terzo della popolazione siriana. Questo è il quadro della situazione nei suoi grandi numeri, e poi ci sono mille altre cose. Oggi una bella notizia che è arrivata ieri sera, lo sapete, la liberazione di Domenico Quirico, l'inviato della Stampa. Però vogliamo partire proprio da una delle frasi che lui ha detto, posto che ospiteremo più tardi, più avanti nel corso della trasmissione, Mario Calabresi, il direttore della Stampa. Allora, la frase è questa. Saluto Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Buongiorno Alberto. Buongiorno a tutti voi. Che insomma tanto la Siria l'ha frequentata e tanto ha raccontato queste vicende. Allora, dice Quirico: ho cercato di raccontare la rivoluzione siriana, ma può essere che questa rivoluzione mi abbia tradito, perché non è più quella rivoluzione laica e democratica che ho conosciuto 2 anni fa ad Aleppo, è diventata una cosa diversa. Ora, lo snodo è proprio questo. In questi ultimi giorni avrete visto, anche sui giornali italiani, anche se sui giornali stranieri si scrive da più tempo, almeno su alcuni giornali italiani si è scritto e sui giornali stranieri si scrive da un po' più di tempo, a proposito del fatto che all'interno di questo mondo variegato che è la rivoluzione siriana c'è un consistente gruppo di estremisti islamici. Allora Alberto, quindi il tema diventa anche, se vogliamo, andiamo là, sì, si colpisce Assad, ma chi vai ad aiutare? Beh, innanzitutto la guerra siriana, se fosse una sola, sarebbe più semplice da descrivere. In realtà qui si combattono almeno 3-4 guerre diverse. È una guerra civile per l'accambiamento di un regime, ma è anche ormai diventata da molto tempo una guerra settaria tra i sunniti, che sono comunque una maggioranza del paese, e la minoranza alawita al potere, ma è anche una guerra contro i cristiani, cioè in qualche modo contro tutte le minoranze druse, sciite, che ci sono dentro il paese. C'è la guerra dei curdi, che combattono sia contro il regime di Assad, ma soprattutto contro le milizie islamiche per affermare la loro autonomia nel nord del paese, e soprattutto è diventata da almeno 2 anni una guerra per procura, perché le monarchie sunnite del Golfo, la Turchia, hanno sostenuto finanziariamente e anche logisticamente le fazioni in lotta, soprattutto quelle islamiche che hanno trovato sul campo, che venivano dall'Iraq o dal Libano, ma che sono affluite dall'esterno. Ci sono 60 o 70 nazionalità diverse e centinaia di gruppi che combattono sul campo, mentre Assad, sappiamo benissimo, è sostenuto attivamente sul campo dagli Hezbollah libanesi e dall'Iran e dietro dalla Russia. E dunque, Alberto, cari signori, attaccare Damasco oggi con un attacco che si presume comunque assolutamente massiccio e violento significa, come dire, fare uno sparo, esplodere uno sparo nel buio, cioè di non sapere che cosa accadrà una volta che si sarà intervenuti militarmente dentro questo paese. E questa è una guerra per procura da molto tempo, da 2 anni ormai, perché Bashar Assad nel luglio del 2011 rifiutò un'offerta con decine di miliardi di dollari presentate dal ministro degli esteri degli Emirati da parte delle monarchie del Golfo per rompere la sua alleanza con l'Iran, alleanza storica. Questo gran rifiuto ha scatenato e aumentato ovviamente il sostegno alla guerriglia sunnita e islamica dentro il paese. E oggi ci ritroviamo con questo conflitto che probabilmente ha disgregato totalmente la società civile di questo paese, e si può parlare ormai purtroppo è soltanto di una ex Siria. Allora, grazie Alberto, io ti ringrazio, hai molto da lavorare in queste ore, anche sulle vicende naturalmente della liberazione di Domenico Quirico, quindi so che ti devo salutare e ti ringrazio per questo tuo intervento iniziale. Grazie a voi. Matteo Mecacci, radicale, ex parlamentare, già presidente della Commissione per la Libertà e la Democrazia dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, buongiorno. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Allora, lei ha... sulla posizione di Emma Bonino, insomma, la sua collega di partito, è stato molto duro. Cioè, lei dice, insomma, un radicale non si comporta così. Là, cioè, è stata varcata una linea rossa, questo mi è sembrato di capire, la famosa linea rossa, ossia l'utilizzo di armi chimiche, secondo le prove che hanno gli americani, non... questo secondo le prove che hanno gli americani, così precisiamo ed evitiamo questi sms che arrivano veramente inaccettabili, ecco, per i toni che hanno, e chi l'ha scritto ha capito di cosa sto parlando. Allora, Mecacci. Sì, no, la mia era una critica a una linea politica, che è la linea politica del governo italiano, e naturalmente Emma Bonino ha, come dire, partecipato alla sua definizione fin dall'inizio, e riguarda la decisione che ha preso il governo italiano fin dall'inizio, cioè fin da quando gli Stati Uniti hanno reagito alle notizie che arrivavano appunto di questo massacro avvenuto a Damasco, che ha colpito 1400 persone, di cui 400 bambini con armi chimiche, e che si aggiunge naturalmente alle cifre che lei citava all'inizio, perché qui stiamo parlando di una tragedia umanitaria di proporzioni grandissime, e tutti noi ricordiamo gli anni 90, ricordiamo il genocidio del Ruanda con 500.000 morti, ricordiamo la ex Jugoslavia con ancora centinaia di migliaia di morti, e ricordiamo anche le parole della comunità internazionale: queste cose non devono accadere mai più. Ora, di fronte alla vicenda siriana, l'errore principale della comunità internazionale è stato aspettare 2 anni per iniziare a parlare di cosa? Cioè della possibilità di un intervento militare che vada a colpire gli arsenali militari di Assad, che sono stati usati in questi anni per reprimere una rivolta popolare che è iniziata in Siria, come ricordiamo, è iniziata in Tunisia, in Libia, in Egitto, e a differenza di quanto accaduto altrove, rispetto alla vicenda siriana, l'Occidente ha deciso che questo poteva continuare, con una valutazione errata anche dal punto di vista della sicurezza, perché la guerra siriana non solo, come diceva Negri, è una guerra per procura, ma è una guerra che si sta estendendo altrove. Il Libano, con il coinvolgimento degli Hezbollah, è in una situazione destabilizzata con attentati che si susseguono. La Giordania ha centinaia di migliaia di rifugiati, quasi tra un po' la metà della popolazione rischia di essere di rifugiati della Siria. La Turchia lo stesso. Quindi continuare ad attendere cosa? Ad attendere che la Russia e la Cina diano l'avallo del Consiglio di sicurezza per condannare Assad? Non è stata approvata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU neanche una risoluzione di condanna nei confronti di quello che è accaduto. Allora, la linea del governo italiano di dire che noi ci saremo solo se ci sarà l'ONU è un modo per nascondersi dietro un alibi, e l'ONU non può continuare a essere l'alibi e la copertura dietro il quale i regimi autoritari poi possono compiere questi massacri, grazie alla copertura che è fornita da Russia e da Cina. Allora, così Mecacci, iniziamo a sentire qualche ascoltatore. Va Gianluca d'Ancona, buongiorno. Buongiorno, salve. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Poi volevo dire, cioè, l'uso dei gas chimici non è accertato che l'abbia fatto Assad verso la sua popolazione. Questo è il primo punto, è importantissimo. Secondo, che praticamente l'attacco americano alla Siria non sarebbe altro che il passaggio per andare in Iran, per il controllo poi degli oleodotti e delle fonti di idrocarburi della regione. Allora, Gianluca, sì, prego, prego, vada. No, Terzo ultimo punto, praticamente Obama aveva promesso un attacco in 3 giorni, ma si è rimangiato la parola dopo che è stato abbattuto un F-22 Phantom, che sono i caccia più potenti al mondo, e 4 missili Tomahawk dai siriani. E questo è un dato di fatto, capito? Allora, ha i suoi stimoli. Abbiamo le persone giuste per rispondere agli stimoli che ci ha dato. Allora, innanzitutto saluto il generale Vincenzo Camporini, capo di Stato Maggiore della Difesa dal 2008 al 2011, adesso vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno, Camporini. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. A lei la farò rispondere sugli aspetti militari che ha sottolineato Gianluca, e quindi il tema alla fin fine, il tema è quello delle prove, ma prima saluto Francesco Conforti di Advantage Financial, che è una investment bank con sede a New York e a Milano, che è in studio con noi. Buongiorno Conforti. Buongiorno a voi. E partirei con lei, perché non è indifferente quel tema dell'Iran, no? E quel tema del controllo dell'energia. La mia domanda è questa: e noi in questa trasmissione abbiamo fatto una puntata, gli ascoltatori possono andare a cercarla, una puntata secondo me è riuscita molto bene, molto interessante, ed è una puntata nella quale abbiamo raccontato e spiegato che cosa sta succedendo negli Stati Uniti, perché dopo il boom dello shale gas, ossia questo gas che si estrae di fatto sbriciolando delle rocce in profondità ed estraendolo, c'è il boom dello shale oil, per cui gli Stati Uniti stanno diventando di fatto diventeranno nel 2020, se questo secondo gli ultimi calcoli, il primo produttore mondiale di petrolio. Già esportano gas, e quindi la domanda è questa: ma che interesse ha l'America a rimanere ancora in quello scacchiere, poste queste cose, Conforti? Beh, la geopolitica e la geoeconomia è un fattore importantissimo. Cioè, teniamo presente che metà delle risorse naturali per l'Europa arrivano dal Medio Oriente, quindi anche dall'Algeria, dall'Iran stesso, dall'Iraq, e l'altra arrivano dalla Russia. Cioè, la presenza, a prescindere dal fattore umanitario e stabilizzante che l'America vuol dare, secondo me, a quella regione, quindi assicurando e proteggendo anche Israele, che diventerebbe a quel punto l'unica nazione con un armamento e con una capacità militare importante, diventerebbe anche il punto di passaggio anche per tutte le esportazioni e il commercio con la Turchia, potrebbe diventare un grande mediatore di quella che è la politica energetica europea, con tutto con tutti i benefici che ne potranno derivare, perché prendendo la posizione in Medio Oriente riuscirebbero in qualche maniera a essere alternativi alla Russia nella definizione politica dell'esportazione delle materie prime dal Medio Oriente, cosa non da poco, a prescindere il fatto che loro sono già in qualche maniera esportatori di energia, anche in Messico stesso stanno facendo degli oleodotti e delle altre situazioni importanti. Quindi la predominanza nell'energia, come nell'alimentare, altra cosa che non viene toccata in questa trasmissione, sono due cose importanti. Quindi anche l'OGM, la modificazione alimentare, dove loro sono presenti fortemente con Cargill, con Monsanto e così via, ha un impatto importante nei prossimi 20 anni o 50 anni del nostro pianeta. Questo forse meriterebbe addirittura una trasmissione a parte. Comunque, secondo me, da questo punto di vista il tema è interessante. Allora, generale Camporini, ci sono questi altri due snodi. Mi scrivono: la vicenda dell'F-22 abbattuto è una bufala. Io chiedo, perché non è che uno può tenere sotto controllo tutto, quindi chiedo a lei, che di queste cose ne sa più di me sicuramente. E dall'altra parte la questione, che è la questione centrale, la questione dell'uso delle armi chimiche. Insomma, chi l'ha usate queste armi chimiche? Che generale. Sì, per quanto concerne la questione F-22 Tomahawk abbattuti, siamo chiaramente in presenza di bufole clamorose, perché gli F-22 non sono ancora stati rischierati in questo teatro, i Tomahawk non sono stati lanciati, quindi non possono essere abbattuti se non volano. Ma per quanto concerne la questione delle armi chimiche, io voglio ricordare che le armi chimiche sono state bandite per una serie di convenzioni, per un accordo fra alcuni paesi, la maggioranza dei paesi del mondo, però non fra tutti. La Siria non ha sottoscritto questo accordo, quindi non si sente vincolata dal possedere e dall'usare queste armi chimiche. Per noi è un peccato mortale, perché l'abbiamo considerato tale. Ora, io non vorrei però che una vicenda come quella siriana venga considerata come una partita di calcio dove ci si combatte, ci si fa del male, però ci sono dei falli che non si possono fare. Ora, soltanto in quel caso l'arbitro fischia dal rigore. E qui è come se ci trovassimo in questa situazione. Si usano i gas, quindi c'è un rigore. Non è così che si fa politica, non è così che si usa lo strumento militare. Oltretutto, un attacco come quello ipotizzato, che sia di 3 giorni o che sia di 5, senza l'uso di forze di terra, senza un coinvolgimento diretto delle forze armate dei paesi che eventualmente parteciperebbero, non ha nessun senso dal punto di vista dell'obiettivo politico che si vuole conseguire. Si vuole dare uno schiaffo ad Assad? Beh, e con ciò? Si vuole far vedere alla Russia che si è pronti a usare la forza? Perché questo io temo che sia uno degli elementi chiave. Perché? Perché qui stiamo giocando un gioco molto più grande. Io ho ascoltato con molta attenzione quello che diceva Negri, lo sottoscrivo interamente e secondo me deve essere ancora ampliato, perché qui c'è certamente lo scontro fra sunniti e sciiti, fra Iran e Arabia Saudita per il dominio regionale. Non dimentichiamoci che l'Iran è il nome moderno di Persia. E non dimentichiamoci che il popolo iraniano si sente l'erede diretto di Dario, quindi il fatto di dover in qualche modo subire l'iniziativa altrui scatena delle reazioni psicologiche interne di grandissima forza. D'altronde l'Arabia Saudita vuole lei il dominio regionale, così come lo vuole la Turchia. Questo è un gioco già complesso su cui si innesta anche la voglia della Russia di tornare a essere quella potenza mondiale che era durante la guerra fredda. Non è un segreto che la Russia sta cercando di stringere accordi con i paesi dell'ex Unione Sovietica in modo tale da ricostruire un pochino quello che era il suo grande impero. Quindi stiamo assistendo a un'evoluzione geostrategica di straordinaria rilevanza di cui non ci accorgiamo, in cui l'Occidente, i paesi dell'Occidente, Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, anche l'Italia, in qualche modo vengono strumentalizzati, vengono usati da chi combatte questa guerra per i propri fini, e noi abbocchiamo inconsapevoli con delle conseguenze che nessuno si può immaginare, nessuno si può immaginare, e senza avere un obiettivo politico. Su questo io insisto, perché le forze armate sono uno strumento potente, ma sono uno strumento, devono essere lo strumento della politica. Se non c'è un obiettivo politico da conseguire, è meglio lasciarle nelle caserme, nei porti e negli aeroporti. Allora, grazie per questa lettura, generale. Noi abbiamo una pausa, naturalmente resti con noi, così come chiedo di restare con noi a Mecacci e a Conforti, che è in studio e quindi non si può liberare, insomma. Però abbiamo una pausa, poi voglio sentire altri ascoltatori e poi ritorniamo a discuterne. Prima degli ascoltatori però avremo, insomma, il direttore della stampa, Mario Calabresi, per farci raccontare un po' questo ritorno di Domenico Quirico. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo, cari ascoltatori. Mario Calabresi, direttore della stampa, buongiorno. Buongiorno a voi. Ciao Mario, immagino Ciao. La gioia. Beh, sì, l'emozione. Ho appena visto Domenico, ci siamo appena incontrati. Sta bene. È stato un sequestro durissimo. E come dire... ce l'ha fatta, è sopravvissuto in una situazione tragica, che quella del sequestro è tragica per quello che racconta, che racconterà di quella che è la situazione in Siria di totale devastazione. Non voglio anticipare troppo di quello che avrete sul giornale del suo racconto, insomma, Mario, però qualcosina di quello che ti ha raccontato stamattina diccelo, se puoi. Ma intanto una cosa, che lui è stato venduto e sostanzialmente rapito subito, già l'8 di aprile, il primo giorno, dopo una giornata in cui era andato appunto a vedere oltre il fronte in Siria la situazione, lui era entrato dal Libano, è stato rapito subito, e è stata una cosa bellissima, piena di spostamenti, ha assistito al bombardamento e alla caduta di Kusaira. Lui è stato rapito da un gruppo che fa parte del gruppo dell'opposizione siriana, di quelli che fanno la guerra al regime, era in questa città Kusaira, che è stata invece riconquistata da Hezbollah e dal regime di Bashar, e quindi ha assistito al bombardamento, alla caduta, alla fuga, e tutto questo sempre tenuto prigioniero. E quello che più lo ha colpito, ed era una cosa che Domenico aveva già cominciato a scrivere nei mesi precedenti, è come è cambiata proprio la natura anche di questa guerra civile. Lui lo ha detto anche ieri sera appena arrivato: io la rivoluzione che avevo iniziato a raccontare mi ha tradito, cioè quell'idealismo che aveva visto ad Aleppo, anche quell'energia oggi è cambiata ed è una guerra in cui da una parte c'è il regime e da un'altra parte c'è una forte componente islamica, jihadista, una componente, come dire, su cui lui si era già interrogato su cosa stava diventando prima di partire, e che oggi ha veramente visto per 5 mesi con i suoi occhi. È passato di mano più volte, Domenico, o è sempre stato con lo stesso gruppo? Guarda, Mario, siccome Domenico adesso deve vedere, verrà interrogato dal magistrato, ci sono tutta una serie di cose che lui stesso dovrà spiegare e raccontare al magistrato, e come dire, che si potranno raccontare dopo, da domani. Okay. Diciamo. Ok, perfetto. No, capisco benissimo. Bene, allora, ansiosi di leggere le sue cronache, Mario, io ti ringrazio perché... L'ultima cosa che ti posso dire è questa. Volentieri. Ha riabbracciato la moglie, a cui si era raccomandato ieri sera appena atterrato: non voglio presentarmi conciato così come sono, ti prego portami la mia cravatta. Appena arrivata la moglie si è messa una camicia pulita e una cravatta, perché erano 5 mesi che era con gli stessi vestiti. Va bene. Senti Mario, io ti ringrazio, ansiosi di leggere le cronache di Domenico, naturalmente. Grazie anche per essere poi restato su quello che è il tema che abbiamo introdotto oggi, che è, insomma, in caso di entrata in Siria, chi andiamo ad aiutare davvero, insomma, ecco, esatto. Questo è un grande tema su cui io penso lui scriverà molto. Grazie Mario Calabresi, grazie, buona giornata. Allora facciamo una cosa, sentiamo un altro paio di ascoltatori, poi torniamo da Mecacci, Camporini e Conforti. Emanuela, che però mi scrivono, Emanuela Del Re, che è presidente dell'associazione EPOS, associazione incaricata al ministero, quale ministero? Per la ricostruzione della società in Siria. Del Re, buongiorno. Sì, buongiorno, ministero degli esteri. Ah, il ministero degli esteri, naturalmente. Allora, quindi voi siete in Siria o non ci siete? Perché immagino che siamo in questo momento in Iraq, al confine con la Siria. E stiamo conducendo un lavoro delicatissimo di appunto ricostruzione della società civile in Siria attraverso dei corsi di formazione e tutta una serie di interventi che tendono proprio ad aiutare i rifugiati a ritrovare una dimensione, perché naturalmente in Iraq abbiamo rifugiati curdi che vengono dalla Siria, che già di per sé naturalmente erano in qualche modo vessati e discriminati, per cui è una situazione che si aggiunge su altre situazioni a quelle siriane, naturalmente. Quindi il nostro intervento è quello proprio di contribuire Questo è il vostro intervento. Volevo capire, contribuire in futuro, naturalmente, perché consentite, allora forse suona come una battuta ma non vuole esserlo, però in Siria la società civile non si è ancora finito di distruggerla, quindi pensare di ricostruirla adesso, diciamo, un po', è sicuramente un po' complesso. Su cosa voleva intervenire Del Re? No, io più che altro mi avete chiamato voi, quindi io sono contenta di intervenire e raccontare questa esperienza, e posso naturalmente dall'interno e dal lavoro sul campo contribuire anche all'analisi, perché l'analisi ovviamente ha tante sfaccettature. Quando lei parlava dell'intervento, chi aiuterà, chi non aiuterà, io sono un analista anche di IMES e di vari enti, e naturalmente posso dire che certamente dal punto di vista dei curdi, che sono una delle componenti della complessa società siriana, certamente questo è uno spunto di allarme molto importante, perché naturalmente, come sappiamo, i curdi sono fuggiti dalla Siria non soltanto per le situazioni di disagio e di paura e di naturalmente atrocità che sono state commesse, ma anche ci sono moltissimi giovani in età da servizio militare, che come sappiamo in Siria è molto duro e obbligatorio, che sono fuggiti, hanno disertato e che sono pronti naturalmente però a difendere il loro territorio, che è quello curdo soprattutto. Quindi anche questo è uno degli elementi da tenere in considerazione. Vabbè, cioè, qua c'è una questione tecnica sulla quale non ci siamo capiti, perché insomma, funziona così, e così lo dico anche agli ascoltatori che non hanno mai chiamato, funziona così: voi chiamate l'800 24 00 24 e poi vi diciamo, sono le nostre bravissime centraliniste che prendono nota, dopodiché attaccano e vi richiamano. È per questo che abbiamo chiamato noi la Del Re, non ha chiamato lei, però è stata lei per prima a chiamare l'800 24 00 24. Daniele da Verona, buongiorno. Buongiorno. Io chiedo se è possibile un chiarimento agli ospiti in studio. Ho l'impressione che in questi ultimi anni sia diventata sempre più importante la divisione tra sunniti e sciiti. Ora non so se è una cosa che è esplosa effettivamente in questi ultimi anni e quanto effettivamente è reale, quanto potrebbe essere un pretesto, non lo so, ecco, perché sempre di più, ma questo un po' in tutte le situazioni del mondo arabo attualmente, sento di questa divisione così forte e così carica di disastri. Ecco, grazie. Grazie Daniele, facciamo chiarire un po', partiamo da Mekacci, che abbiamo abbandonato un po' in questi ultimi minuti. Allora Mekacci, ci aiuti il nostro ascoltatore a capire, insomma, proprio come, come leggere le cose anche da questo punto di vista. Allora, facciamo un passo indietro. Questi conflitti settari che si sono sviluppati nel corso di questi ultimi anni derivano da quella crisi politica che è iniziata con l'inizio delle rivoluzioni in Tunisia, in Libia, in Egitto, poi in Siria, ci sono stati su movimenti popolari, in Yemen, perché erano paesi che erano retti da brutali dittature e regimi autoritari. Questo non bisogna mai dimenticarlo. Sotto questo tipo di regimi la convivenza avviene appunto senza l'esercizio delle libertà civili delle persone. Nel momento in cui sono crollati questi regimi e mancava anche una cultura politica democratica nelle società di questi paesi, il richiamo all'appartenenza settaria religiosa, da un lato dei sunniti e degli sciiti, ma anche all'interno del mondo sunnita c'è un gravissimo scontro anche all'interno tra le frange più estremiste e quelle che invece accettano la democrazia come strumento per governare, sta producendo questi risultati. Allora noi siamo di fronte a una domanda per l'Europa e per l'Occidente, perché stiamo parlando di paesi che sono a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste. Se questi paesi sono instabili, se in questi paesi c'è la guerra civile, noi pensiamo di essere al sicuro? Possiamo dire che è una cosa che riguarda solo loro e che quindi non dobbiamo intervenire, non dobbiamo fare niente, dobbiamo lasciare che questa guerra civile continui all'infinito e noi saremo tranquilli? Non sarà così. Quindi occorre una strategia che sia innanzitutto politica, di coinvolgimento appunto di quelle forze sane e laiche che esistono all'interno di questi paesi, affinché possano rafforzarsi e possano anche avere la possibilità di governare in futuro. Ma di fronte a tragedie di questa portata, di fronte a crisi umanitarie e di sicurezza come questa, dire che li lasciamo fare, noi non interveniamo, Assad può fare quel che vuole, è un errore clamoroso. Io non dico che sarà sicuramente una passeggiata un intervento militare, non lo è mai, sono tragedie che si ripetono. Però Mekacci, il punto è chiaro, il punto è chiaro, però resta, qua ricoinvolgo il generale Camporini e poi riparleremo con Conforti, perché aveva qualche osservazione su quello che diceva Mekacci, però generale Camporini, però il punto è sempre quello che sottolineava lei prima, prima di fare l'intervento militare ci vuole una strategia politica, e la strategia politica al momento non si vede, ma dico nemmeno dagli Stati Uniti, se non per quella lettura che ci ha dato Conforti prima, che secondo me è molto interessante, ossia una questione geostrategica di controllo, comunque di attenzione massima su quelli che sono i passaggi e le risorse energetiche, per poter avere la mano anche sull'Europa, tagliare un po' fuori Russia e Iran, no? Sì, e non solo l'Europa, attenzione, perché il più grande divoratore di energia proveniente dal Medio Oriente si chiama Cina, quindi chi controlla i flussi di energia dal Medio Oriente in qualche modo ha una leva di controllo sugli sviluppi politici in Cina, e sappiamo che con il pivot verso il Pacifico annunciato a suo tempo dal governo americano, l'interesse strategico verso la Cina è diventato forse se non assoluto, certo il più importante dell'attuale fase storica. Ciò detto, l'esigenza di avere ben chiaro che cosa si vuole ottenere, qual è l'end state che si vuole conseguire, è dimostrato da tutte le vicende più recenti. Guardiamo quello che è accaduto in Libia. Siamo intervenuti in Libia, abbiamo rovesciato Gheddafi, per che cosa? Per creare un coacervo di milizie che si combattono l'una con l'altra, con attentati, con scontri, con l'uso di armi pesanti, una situazione di caos e di ingovernabilità assoluta. Guardiamo quello che è successo nei Balcani. Noi siamo nei Balcani, vorrei ricordarlo, dal 1995, perché prima c'era un profore e poi c'è stato l'intervento occidentale, diciamo l'intervento NATO vero e proprio, poi culminato nell'intervento in Kosovo nel 99. In Kosovo noi siamo dal 1999, sono passati 14 anni, possiamo dire di avere risolto il problema in quell'area? No, il conflitto è ancora lì, c'è il problema delle minoranze serbe nella zona nord del Libano, ci sono questi negoziati faticosissimi in corso dove viene agitata spesso la carota dell'adesione all'Unione Europea in modo tale da convincere a fare dei passi negoziali da parte di Belgrado e da parte di Pristina ovviamente, però il problema non è stato risolto perché non c'era un obiettivo politico ben chiaro che si voleva conseguire. In Siria siamo nella stessa situazione, moltiplicata per mille, perché con la impossibilità di identificare le singole componenti della rivolta verso Assad, con la possibilità, impossibilità di identificare chi le alimenta, l'Arabia Saudita, il Qatar, la Turchia, rischiamo veramente, come dicevo prima, di fare il gioco di qualcuno inconsapevoli. Quindi io, di essere degli strumenti in sostanza. Quello che io auspico è prima di tutto una riflessione formale da parte dei paesi occidentali, da parte dell'Unione Europea, da parte dell'Unione Europea con gli Stati Uniti, per cercare di capire e poi agire di conseguenza. Parlo prima, lascio il tempo che trovo. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo, dunque, Francesco Conforti, presidente e fondatore di Advantage Financial. Un paio di osservazioni mi sembra che avesse su tutto questo, in particolare a proposito appunto delle strategie energetiche. Sì, allora il tutto non è iniziato con la Tunisia, con l'Egitto e con la Libia, ma il tutto è iniziato ancora prima, già da una visione degli anni '80 in Afghanistan, poi con l'Iraq, quindi sunniti e sciiti già lì, e per lo più l'esigenza energetica della Cina ha un impatto geopolitico e geoeconomico importante, tant'è vero che negli ultimi giorni la Russia ha fatto degli accordi molto importanti per la fornitura di gas alla Cina. Quindi su questo scacchiere il petrolio... E non è un caso probabilmente che l'abbia fatti proprio in questo periodo? Beh, le cose che noi vediamo ora sono cose che bollono in pentola prima, quindi noi siamo, diciamo, gli spettatori del vapore che si viene a creare dall'ebollizione, ma queste dinamiche sono dinamiche di molti anni. L'instabilità, secondo me, in Libia e negli altri paesi è qualcosa che ha una proiezione di diversi gruppi, che però possono essere gestiti, perché i players e diciamo chi muove i fili di queste due di questa discordia sono il Sud Arabia, che poi in qualche maniera risponde agli Stati Uniti, e l'Iran, che è molto vicino alla Siria e quindi un passaggio importante della politica medio orientale sull'energia, e alla Russia in maniera indifferente. Quindi la definizione energetica, che poi ha anche un impatto sulla visione strategica dell'Europa, che poi anche nel Consiglio di sorveglianza o nel Consiglio di sicurezza dell'ONU con la Francia e con l'Inghilterra, ha la sua valenza, e ha la valenza tale da poter influenzare la politica energetica europea dei prossimi 40-50 50 anni, quindi tutto questo in funzione etnica si definisce in quello che sarà il flusso di petrolio e di gas per 400 o 500 milioni di persone di un diciamo di un'area economica che è quella della Comunità Europea. Fabrizio da Piacenza, buongiorno. Scusi, dottor Spezia, io innanzitutto volevo farle i complimenti per la redazione, lei, per gli ospiti, con la competenza degli ospiti che avete scelto, perché grazie. Sono state toccate delle cose molto importanti che sono la base per cui si sta facendo una, non voglio usare un termine molto pesante, ma se non c'è, non si usa intelligenza. Grazie, grazie da tutta la redazione che siamo, no, Alessandro, però, Marcotulli ed io. Ma perché poi dopo solo sì. Chi forse ha avuto esperienza, nel caso mio specifico in quei luoghi, l'ho avuto anche a livello militare 30 anni fa, e quindi a sapere che cosa c'è dietro dopo una come diceva bene il generale, avere un'idea politica ben chiara per poi avere, curare e difendere quelli che possono essere gli interessi di tutti i soggetti nella cosa. Noi veniamo usati, noi l'Europa, l'Italia in primis viene usata solo in questo scacchiere, quindi molti stati europei vengono usati e poi c'è la ciliegina o c'è una caramella che verrà decisa dagli americani per in questo scacchiere qui, quindi non è una guerra che si sta intensificando per difendere certi diritti, perché giustamente non si hanno le prove che non sono state usate direttamente, ma la cosa più ipocrita è che io dico, quando si uccidono i bambini con una bomba e si uccidono dei bambini invece con altre armi, è questa qui che deve fare la differenza per fare un intervento, e questa è una cosa illogica. Dietro ci sono quegli interessi che diceva il suo ospite prima, non so se Conforti o Negri, della Monsanto, della Cargill, chi ha in mano il potere alimentare e dell'energia, e basta, e si utilizzano soggetti in loco e i militari, noi, io te l'ho fatto anche, l'ho provato in quei territori, veniamo usati per altri fini, se usati bene, bene, un militare ci va con un passione anche per la propria nazione con cui rappresenta, se no altri fini è meglio fermarsi prima. Grazie Fabrizio per la sua testimonianza, sentiamo anche Michelangelo da Milano, se riesce a stare in un minuto, Michelangelo. Sì, anche meno. Allora, tanto complimenti per la trasmissione, veramente ottima, perfetta. Ci manca Giannino comunque. Che le devo dire? Lo so. Però allora, la conclusione è questa, mi sembra, che la conferma di questa trasmissione dice che ci sono guerre ricche e guerre povere. Il Ruanda ha fatto, diceva un suo intervistatore, cioè, insomma, chi ha intervistato ha fatto 500.000 morti in 10 anni e nessuno ha mosso un dito per fermare questo genocidio. La seconda affermazione che vorrei fare è che la democrazia si costruisce nel tempo. È vero che in Libia, in tutti questi paesi ci sono stati. Michelangelo, devo interrompere perché siamo quasi in chiusura, però il ragionamento si capiva già così. Fatemi chiudere dopo una puntata intensa, con una battuta di un ascoltatore. Avete sentito all'inizio, c'è stato un ascoltatore che ha detto all'abbattimento dell'F-22. Non male questa che mi arriva da Giuseppe da Milano, chissà se qualcuno riesce ad abbattere il mio F-24. Adesso fateci chiudere così. Allora, grazie Camporini, grazie Mecaci, chiedo scusa a Francesco, la provincia di Pisa e tutti gli altri che non sono riuscito a far intervenire, grazie Conforti per essere stato ospite nostro, grazie a Franco Piantanina in assistenza, Alessandro Marcotulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo come sempre domani dopo il GR delle 9. Ricordati! Mancano 21 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.